30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. L'ondata di freddo che ha colpito l'Italia non è direttamente associabile ai cambiamenti climatici, anche se con il riscaldamento globale la probabilità di questo tipo di eventi aumenta. Lo afferma il climatologo Vincenzo Ferrara, dice: nessun fenomeno specifico può essere associato ai cambiamenti climatici, quindi non possiamo dire che il freddo è arrivato perché il clima sta cambiando. Quello che si sa è che il riscaldamento globale aumenta la probabilità di eventi atmosferici estremi, e anche quello di questi giorni fa parte della categoria. Buonasera cari ascoltatori di 30 minuti in cronaca. Dunque parliamo di freddo, già, perché è tutta la settimana che sentite nei nostri giornali radio, negli appuntamenti, negli approfondimenti, gli effetti di questa ondata di freddo siberiano sul nostro paese, sull'Europa centrale e orientale. Bene, questa sera però ne parliamo in un altro modo e ci spostiamo, proprio magia della radio, in un luogo dove si può dire il freddo abita quasi regolarmente. Ci spostiamo addirittura verso l'Himalaya, dove raggiungiamo un amico, un caro amico di Radio 24, un grande alpinista, Simone Moro. Buonasera Simone. Buonasera Gigi. Allora, sei stato coinvolto in una puntata sul freddo. Io ho fatto un'associazione abbastanza banale, se vuoi, nel corso della settimana. Si fa un gran parlare di freddo. Beh, c'è chi il freddo lo deve gestire per professione. Un alpinista come te, che sta per sfidare, proprio poi ci racconterai nei dettagli, il Nanga Parbat, nona montagna più alta del mondo, ben oltre gli 8000, in pieno inverno, deve avere un rapporto, come dire, un po' particolare col freddo. Sì, tanto più che il freddo nel mio caso addirittura è cercato, e quindi sì, so che quando lo cerco, come in questo caso nel tentativo di fare una scalata invernale, c'è tutta una serie di comportamenti e anche di considerazioni che vanno fatte non solo a priori ma anche durante. Io mentre vi sto parlando sono all'interno del mio sacco a pelo, e questo per farvi capire come primissima cosa che l'unica cosa calda che esista qui dove sono io adesso, al campo base del Nanga Parbat, sono io, cioè sei te stesso, l'unica fonte di calore che esiste sei tu. Questo lo dico non tanto per cedere nell'enfasi, ma per far capire come anche la percezione del freddo è diversa. È chiaro che magari sul termometro la temperatura in questi giorni, io posso avere la stessa temperatura vostra qui al campo base, e di sicuro in Siberia, parlavo con un amico l'altro ieri, hanno 40 sotto zero. Il problema è però come uno la vive. Se sei in un mondo antropizzato e quindi tu vivi in un ambiente riscaldato e quindi passi dall'auto al bar, dal bar a casa tua, e quindi hai delle esposizioni brevi al freddo, lo percepisci forse ancora di più in quei brevi secondi, ma diventa un fattore comunque abbastanza lontano. Diventa vicino quando la macchina comincia a slittare, devi scendere a mettere le catene e ti diventano le mani fredde. Quando invece per due mesi tu devi vivere 24 ore su 24, quindi mangiare, dormire, lavarti, andare in bagno, sempre costantemente con temperature, come in questo caso, tra i meno 15 e i meno 40, ti rendi conto come se siamo molto fragili rispetto a degli eventi naturali, delle percezioni naturali come quelli del freddo. Ecco, Simone, scusa, ci sono, ecco, l'adattamento. Vorrei proprio parlare con te di questo aspetto, perché è vero che siamo fragili, ma siamo straordinariamente elastici, perché quando voi alpinisti, quando in particolare alpinisti come te, che ormai hanno fatto delle invernali sui giganti della terra una vera e propria specializzazione, insomma, spingono fino a che livello la sopportazione del freddo? Qual è quel punto in cui, mentre noi arriviamo, diciamo, alla classica misura dello zero, per voi si entra in un territorio in cui il freddo diventa ingovernabile? Innanzitutto c'è da dire che l'adattamento aumenta anche la sensibilità alle variazioni del freddo. Faccio un esempio: tra meno 25 e meno 40 c'è un abisso, e quando non sei abituato a te sembra troppo, estremamente freddo, terribilmente freddo. Quando passo da 40 sotto zero a 25 sotto zero, invece lo percepisco tanto e colgo la diversità di temperatura. Poi diventi molto, molto, molto accorto in ogni cosa che fai. prima di fare un movimento che magari necessita di manualità, e quindi magari se tu hai le moffole non riesci a fare questo tipo di movimento, come legarsi a una corda o attaccarsi a un moschettone, ebbene fai come una sorta di allenamento ideomotorio, pensi il movimento che devi fare, lo cerchi di ottimizzare, cioè di ripeterlo nella mente, e dopodiché ti togli i guanti e fai tutto velocissimamente. Non puoi permetterti di avere le mani gelate, perché altrimenti non riesci più a scaldarle, non esiste nessun ambiente caldo, non puoi aprirti la cerniera e metterti dentro le mani. Sì, alcune volte lo fai, sapendo che come apri la cerniera magari della giacca cominci a avere freddo al petto. Ogni atto respiratorio, cioè ogni volta che respiri aria, se respiri aria a 40 sotto zero a bocca aperta, perché magari c'è anche poco ossigeno, da una parte sei soddisfatto perché incameri più aria, dall'altra è una pugnalata nello stomaco. Quindi non è che ci si allena al freddo, non è che se uno vive in una cella frigorifera è allenato, diventa solo accorto. Ad esempio quando dormi cerchi sempre di dormire abbastanza rannicchiato e non disteso, in modo da scaldarti meglio, di non tenere la bocca fuori dal sacco a pelo ma respirare all'interno, in modo che ogni atto respiratorio tu scaldi anche il sacco a pelo. Insomma, ogni accortezza per attrezzarsi, cioè, ogni accortezza per attrezzarsi a una situazione. Simone, tu hai citato anche un elemento chiave, che è quello dei materiali. In fondo tutti noi, basta uscire una mattina fredda per avere la spiacevole sensazione di entrare in un automobile e mettere le mani sul volante, eppure stiamo parlando davvero come dire, del primo freddo. Il rapporto con i metalli, con il comportamento degli attrezzi, quindi dell'alpinista ma non solo, in che modo cambia quando la temperatura precipita? È incredibile come i metalli ti si attaccano alla pelle e ti provocano anche una certa forma di ustione. E purtroppo ci sono alcuni contatti che devo fare ogni mattina rapidissimi, soprattutto quando sono in altissima quota. Io magari alcune cose posso tenerle dentro nel sacco a pelo per far sì che quando poi le tocco siano calde, e sto parlando delle scarpette interne, delle batterie, delle videocamere, delle fotocamere, del telefono satellitare, però non posso tenere tutto nel sacco a pelo, anche perché poi non si dorme bene, non riesce a dormire. Allora quando mi alzo e mi infilo l'imbragatura, c'è la figlia in metallo che so già che quando mi scopre di infilarmela la guardo come un nemico, mi cerco di alitare proprio sull'occhiello in metallo per scaldarmi un po', e poi cerco di mettermi l'imbragatura più velocemente possibile. Se tocchi una piccozza a mani nude, o se tocchi un moschettone a mani nude a 20, 30, 40 sotto zero, ti rischia di rimanere attaccata veramente la pelle, ed è una sensazione bruttissima quella del primo secondo, è come fosse una scarica elettrica, un pizzicotto che fa un male cane. Questo è un problema, e l'alpinista vive purtroppo con i metalli. Il rampone stesso che sta sotto lo scarpone è uno dei più grandi conduttori di freddo. Ecco perché ti si congela di solito di più i piedi e le mani, non solo perché sono delle parti distali, cioè le parti distanti dal cuore, ma anche perché di solito sono delle parti, soprattutto i piedi, che sono a contatto con dei conduttori di freddo incredibili, che sono la gomma, la suola e i ramponi. Ecco perché nelle ultimissime soluzioni tecniche, e noi italiani in questi siamo maestri, in un momento in cui ci ridono tutti dietro, bisogna dire che siamo i numeri uno al mondo noi per la produzione di materiali, sia scarpe che materiali alpinistici, stiamo realizzando delle scarpe che non hanno più suole in gomma, proprio perché il punto di contatto non è mai la suola ma è il rampone, e quindi si mettono come delle suole, chiamiamole, disegnate, ma che sono dei materiali invece inerti. Ecco, lo zaino dell'alpinista è davvero anche un concentrato di cose essenziali e di tecnologie in evoluzione. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera, andiamo subito con Simone Moro al campo base del Nanga Parbat in Pakistan, l'8000 credo il più occidentale rispetto appunto al grande sistema, ma insomma di sicuro una delle grandi montagne che mai è stata scalata d'inverno. Simone Moro ha deciso di farlo con un suo ormai compagno storico di arrampicata. Simone, raccontaci allora l'obiettivo di questa tua spedizione. Allora, siamo partiti a Natale e quindi è un po' di tempo che viviamo in questa cella frigorifera con temperature, come dicevo prima, tra i 15 e siamo arrivati fino a 41 gradi sotto zero. Adesso è arrivato forse il momento, perché una spedizione invernale è anche veramente un gioco tra azione e attesa, e l'attesa quante volte si fa anche snervante, proprio per le condizioni in cui la stai vivendo, non sei sulla poltrona di casa tua. Domani, domenica, partiremo per fare il tentativo. Sembra che ci sia un calo della velocità del vento, che oggi e ieri è stimato intorno ai 125 km orari, quindi venti impossibili oltre gli 8000 metri. Il Nanga Parbat è alto 8125 ed è maledettamente alto. Il dislivello che per il momento abbiamo coperto io e Denis allestendo tre campi è di 2400 metri, siamo arrivati a 6600 e il campo base da cui vi parlo, dentro il mio sacco a pelo, è 4230 metri. Ebbene, 2400 metri di dislivello sono esattamente la differenza che c'è, ad esempio, dal versante tibetano tra il campo base avanzato dell'Everest e la cima. E qui invece con la stessa differenza siamo solo a 6600 metri. Questo per spiegarvi che il tentativo che faremo partendo domani durerà 5 giorni in salita e 2 giorni in discesa. Vivere 7 giorni è una delle cose più difficili, sopravvivere 5 giorni. E l'arte è proprio quella di riuscire a tenere alta la motivazione e avere anche le forze fisiche, perché si perdono quasi 4 litri di acqua al giorno solo con la ventilazione. L'aria che respiro è secchissima, asciuttissima, e io so già che potrò bere forse al massimo un litro al giorno, perché devo sciogliere neve per ottenere acqua, c'è un lungo processo, non posso portarmi una bombola del gas da 20 kg, devo usare le piccole bombolette, quindi tornerò da questo tentativo che sarò quasi 7, 8, 10 kg in meno, più che altro per la perdita di liquidi più che per un calo effettivo di peso. Simone, quanto lavoro ti richiede sciogliere, ottenere un litro d'acqua in alta montagna? Quanto tempo? Ma adesso ci sono anche qui, la tecnologia sta dando una mano, ci sono dei nuovi fornelli che sono molto più efficienti, però per assurdo bruciano anche molto più gas e quindi devo portarmi anche più bombolette. Però in termini di tempo, per ottenere mezzo litro d'acqua devo impiegare almeno 20 minuti. E ciò che si ottiene, ricordiamocelo, è acqua distillata, quindi io da un mese, da Natale, io sto sì idratandomi, bevendo, mangiando, ma basandomi su acqua distillata. È come se vi chiedessi a tutti voi di vivere per un mese o due bevendo l'acqua del ferro da stiro o l'acqua della batteria della macchina. Ecco, Simone Moro, senza sali, senza metalli. Simone, l'uomo non è un ferro da stiro, non è nemmeno una rana nel Manitoba. Leggo da uno straordinario libro che suggerisco a tutti, si chiama Gelo di Bill Strever, un biologo americano che ha dedicato un anno a un lungo viaggio attraverso il gelo. Dicevo, la rana del Manitoba è uno di quegli animali che ha imparato ad adattarsi completamente alle condizioni appunto del Nord America, arrivando addirittura a congelare le vene, a congelare il di fatto il suo corpo interamente per passare l'inverno. Però l'uomo funziona in maniera diversa. Allora, campanelli d'allarme, congelamenti, chi fa il tuo mestiere a livello professionale ovviamente ne parla e ne tiene conto. Come vi regolate quando rischiate di trovare nei prossimi giorni temperature regolarmente al di sotto dei 25 sotto zero? Allora, io la cosa su cui mi focalizzo di più sono i piedi. Cerco sempre di partire con i piedi caldi e con le scarpe scaldate, perché se parti già con i piedi freddi sei fottuto, perché dopo un po', all'inizio sembra una sensazione di torpore, dici basti, ho un po' le dita fredde, poi cominci a muoverle all'interno e senti che tu le stai muovendo ma non senti niente, quindi toccano sopra e sotto la scarpa ma non ti mandano nessun segnale fastidioso, e questo è pericoloso, significa che ormai la sensibilità se ne sta andando. In quel momento devi subito fermarti e tornare indietro, sapendo che l'unica fonte di calore è semmai riuscire a tornare alla tenda, entrare nel sacco a pelo, togliersi le scarpe, le calze, massaggiarsi i piedi, accendere il fornelletto e provare un po' a stimolare e a scaldare la circolazione. Quindi qui c'è un'attenzione quasi maniacale, proprio perché sei lontano da qualsiasi ambiente caldo. se tu stai sciando in qualsiasi stazione sciistica nostra e non senti i piedi, ti fermi, entri nel rifugio, dopo un po' ti sei scaldato. Ecco, qui quell'opzione non esiste. Ecco, il rifugio, il rifugio, la parola stessa lo indica, è il posto dove uno trova appunto, risolve un problema che invece è termico. Simone, abbiamo parlato all'inizio di cambiamenti climatici, una domanda da chi osserva l'Himalaya direi da un ventennio. Hai avuto modo di osservare i cambiamenti climatici in alta quota? Sì, purtroppo e terribilmente. Che dopo io magari sia un ottimista e vede in questi cambiamenti climatici non solo e per forza l'azione negativa dell'uomo, che secondo me è solo acceleratrice di processi ciclici. Verrà sicuramente una nuova fase glaciale, insomma non sono così catastrofista, però l'accelerazione che l'uomo ha dato, innegabile, la vedo non tanto nel ritiro dei ghiacciai, perché un ghiacciaio lungo 70 km, se poi lo vedi lungo, un esempio macroscopico, 60 km, ti sembra cambiato poco, lo vedo nell'assottigliamento del ghiacciaio. Cosa vuol dire? Montagne che nel 2003, come il Nanga Parva stesso che sto guardando io adesso, vedevo coperte di ghiaccio fino alla base, nel giro di 2-3 anni vedo che il ghiaccio comincia 500-600 metri più in alto, proprio perché fino all'ultimo io vedevo sempre coperto di bianco e mi sembrava che fosse sempre coperto di ghiaccio. Si assottigliava sempre di più, alla fine quando è sparito questo assottigliamento dal 5 metri a 2 metri a 1 metro a pochi centimetri, di colpo mi ha lasciato scoperto i primi 500 metri di montagne. Il Broad Peak è stata la montagna dove ho visto di più questo effetto, nel 2007-2008 ero là per fare dei tentativi in invernale, l'avevo già salito nel 2003 e ho visto veramente delle cose che c'è da mettersi le mani nei capelli. I fiumi per il momento sono pieni qua, d'estate, però non c'è nessun ancora sbarramento naturale, non si sta sfruttando niente da un punto di vista idroelettrico, non ci sono bacini lacustri artificiali, probabilmente noi non ci stiamo ancora accorgendo che c'è un rubinetto aperto. E il rubinetto aperto perché si stanno sciogliendo i ghiacciai, bisognerà un po' ricorrere ai ripari senza per forza fare dei mari artificiali, però in alcune regioni come queste poverissime non c'è neppure lo sfruttamento in questi anni di energia elettrica e quant'altro. Simone Moro in collegamento con noi dal Nanga Parba, dove domani, tempo permettendo naturalmente, con il compagno Denis Rubuco si lancia di fatto verso il primo tentativo di scalata invernale di questo colosso. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, Simone. Parliamo della via. Tu hai parlato di una montagna che cambia. Ho letto anche nel tuo blog, nei tuoi commenti, che cambiano i colori, cambia la consistenza del ghiaccio, laddove c'è, non c'è. Insomma, parliamo per due minuti di alpinismo e della via che vi porta verso la vetta. Ma c'è un link diretto tra il riscaldamento globale e anche l'alpinismo, perché adesso i ghiacciai stanno diventando sempre più aperti, sempre più crepacci, sempre più frequenti crolli di seracchi. Anche mentre stavo facendo l'intervista adesso, nonostante l'inverno, ho sentito il crollo di un grande seracco, ovviamente lontano dal campo base, quindi ci stiamo muovendo in un ambiente che non è più quello di 20 o 30 anni fa, lo vedo molto più insicuro, è più insicuro adesso. La via che noi vogliamo tentare è una via nuova, e la via nuova significa un itinerario mai salito da nessuno sulla montagna più grande del pianeta, non la più alta ma la più grande, per differenza di dislivello tra il campo base e la cima. La via nuova che stiamo aprendo lo stiamo facendo non tanto perché volevamo aggiungere difficoltà a difficoltà, ma proprio perché la via normale, chiamiamola, è una lastra di ghiaccio puro, non c'è più neve sopra, sarebbe stato troppo complicato e rischioso riuscire a salire da quell'itinerario. Dovevamo mettere quasi 3 km di corde fisse, un lavoro da carpentiere. Allora abbiamo esplorato un ghiacciaio, il ghiacciaio Diama, e stiamo tentando di fare una via che era già stata tentata da Reinhold Messner nel 2000. Quindi lui aveva già visto questo itinerario teorico, non è riuscito a completarlo, l'ha portato avanti per metà, e quindi la via è ancora lì da aprire. Siamo anche in contatto con Reinhold, sarebbe bello riuscire a chiudere questo progetto a distanza di 12 anni. E tra l'altro è una via nuova nata dall'esplorazione di un ghiacciaio che è stato esplorato per la prima volta 110 anni fa da Mammeri. e quindi sarebbe un po' un congiungimento di tre momenti storici, quello di Mammeri, quello di Mesner, e sarebbe bellissimo se ci fosse anche lo zampino nostro finale. Assolutamente, hai citato veramente i grandi della storia dell'alpinismo. Allora in bocca al lupo naturalmente a Simone Mora, al suo compagno di cordata Denis Urubco, e resteremo a seguire questa grande tentativo nel corso della prossima settimana. In bocca al lupo sicuramente da tutti gli ascoltatori di Radio 24. Simone, a prestissimo. A prestissimo, grazie, crepi il lupo. Bene, siamo alla conclusione, solamente per ringraziare Peter Bescapè in regia. 30 minuti in cronaca torna come sempre settimana prossima a partire dalle 19:30. Buon fine settimana a tutti.